Per tutta la vita ho vissuto e lavorato in una grande città. Il che, ora che ci penso, è piuttosto un problema, visto che mi sento sempre a disagio tra la folla. Sul serio, ho questa paura degli spazi chiusi. Tutto mi fa sentire in trappola, in continuazione. Sa, mi dico sempre che deve esserci qualcosa di meglio là fuori, ma forse penso troppo. E io credo che tutto risalga al fatto che ho avuto un'infanzia molto ansiosa. Sa, mia madre non aveva mai tempo per me. Insomma, quando si è il figlio di mezzo in una famiglia di 5 milioni, non ricevi nessuna attenzione, voglio dire, com'è possibile? E ho sempre avuto questa storia dell'abbandono, sapesse che mi affligge. Mio padre era fondamentalmente un fuco, come le ho detto, e sa, spiccò il volo quando ero ancora una larva. Il mio lavoro, poi, non mi faccia incominciare, perché io mi irrita molto, vede? Io non sono tagliato per fare l'operaio, glielo dico subito. Mi sento fisicamente inadeguato. Io in tutta la mia vita non ho mai sollevato qualcosa che andasse oltre 10 volte il mio peso corporeo. E arrivando al dunque, maneggiare la terra, ecco, non è la mia idea di una carriera gratificante. È tutta questa colata di entusiasmo per il superorganismo che io, sa, non posso capire. Ci provo, ma non la capisco. Insomma, sa, io cos'è? Io dovrei fare tutto per la colonia e che ne è dei miei bisogni? Che ne è di me? Insomma, devo credere che esiste un posto là fuori migliore di questo. O mi raggomitolerei in posizione fetale e piangerei. L'intero sistema mi fa sentire insignificante. Eccellente! Hai fatto un grosso passo in avanti. Sul serio? Sì, Zeta. Tu sei insignificante. Davvero? Piano terra! Operaio. Soldato. Operaio. Riproviamoci. Impugnare bene, colpire forte, schiena dritta, concentrarsi, accompagnare il movimento. Bene, devo tenere un atteggiamento positivo, un buon atteggiamento, anche se sono del tutto insignificante. Sono insignificante, ma con stile. Oh, scusa, Zeta. Non ti avevo visto. Bene, Azteca. Sono così insignificante da essere invisibile. Adesso l'hai capito. Dopotutto, qui non si parla di te. Si parla di noi, della squadra. Si parla di questo. Di un gigantesco buco nel terreno. Bene, ragazzi, ci sentiamo in forma? Sì! Sì. Grandioso. Ora, R1734 fino a Z7829. Siete della palla demolitrice. Ricevuto. Stupendo. Ricevuto. E vai, ci diamo il dondolo. Un po' di esercizio fisico. Ricorda bene, Azteca. Sì, la palla è fondamentale qui. Non dimenticarti, sai. Devi essere tutt'uno con la palla. Ah, e se adesso tu ci dessi un taglio? Senti, a me piace il mio lavoro. E tu, beh, tu pensi troppo. Avanti, Zeta. Aiutaci a costruire una colonia più grande, migliore. E santo formicaio, cerca di esserne felice. Certo, certo. Insomma, perché dovrei essere infelice come attrezzo edile? Bene, operai, ricordate. Eccolo là. Sì, la palla. Oh. Fate venire fuori l'energia! Sorridi. piedi e manda giù. Questo è per la colonia. Qualcuno finirà per intentare causa. Tenetevi forte, ci siamo! In alto! Ora sì che oscilliamo! Per caso l'ho detto che le altezze mi danno la nausea? No! Che bomba! Sì, lo so. Sono una palla. Operai. Sono deboli. Mancano di disciplina. Mancano di impegno. Generale, so che c'è stata una pecca o due. Ma gli operai stanno lavorando. Ce la mettono tutta. Non puoi farci niente. È la tua natura. Ma a dispetto dei tuoi limiti, vedrai che finirai questa galleria in tempo. Che piova o ci sia il sole. D'ora in poi, chiunque rimarrà indietro dovrà giustificarsi di persona con il colonnello Cutter. E ti assicuro che il colonnello non è comprensivo quanto me. Potete andare. 4 giorni ancora. 4 giorni soli. E diremo finalmente addio al loro genere di incompetenza. Sì, signore. Un nuovo inizio. Immaginati. Una colonia forte, signore. Una colonia di cui possiamo vantarci. Sì, ma ancora non ci siamo. Cutter, ho saputo che un esercito di termiti si è mobilitato contro di noi. Contro di noi? Dobbiamo inviare truppe nel cuore del territorio nemico per attaccare quella colonia. Attaccare le termiti? Senta, signore, è un suicidio. Esatto. Hai la lista che ti ho chiesto? Sì, generale. Queste sono le unità fedeli alla regina. Allora invieremo queste. Peccato, ci sono dei bravi ufficiali. Non occorre il consenso di Sua Maestà per dichiarare guerra? È il nostro prossimo passo. Generale, siamo in pace con quella colonia da anni. Perché dovrebbero attaccarci? Per la nostra terra. Sono disperati, vogliono altro territorio fertile. Forse pensano che siamo molli, deboli. Perché non inviamo un ambasciatore? Negoziamo un nuovo trattato. Certamente non c'è bisogno di spedire soldati. Mi creda, ogni formica di questa colonia è preziosa per me. Ecco perché dobbiamo colpire ora, che abbiamo il vantaggio della sorpresa. Se le termiti invadono la nostra colonia, allora... Sì, generale. Lo so quello che possono farci. Molto bene. Ha preso una saggia decisione. In effetti, ha assicurato il futuro a questa colonia. Buongiorno, generale. Principessa Bala. Oh, ma che bella sorpresa. Ogni volta che ti vedo sei più bella. Grazie. Spero che tu non sia qui solo per affari. Certo che no. Perché sarebbe carino se potessimo conversare una volta prima di sposarci. Hai assolutamente ragione. Cutter, trovami un po' di tempo per me e la principessa Bala. Ah, in effetti, signore, c'è tempo adesso per un momento privato. Siamo in anticipo di qualche secondo. Eccellente. Principessa? Beh, qualche secondo non è molto, ma se è pieno di significato. Allora, com'è andata oggi? È accaduto qualcosa di interessante? Abbiamo dichiarato guerra. Dichiarato guerra? Però, una vera giornataccia. Signore. Odio interrompere, ma il tempo non si ferma per nessuna formica. Principessa. Mamma, sai ricordarmi perché mi sposo con quello lì? Bala, dobbiamo proprio discuterne di nuovo. Mi sembra che non abbiamo niente in comune. È un cadavere imbalsamato. Sì, cara, lo so che il generale può essere un tantino arcigno e in qualche modo imperioso a volte, ma... So che tiene molto a te. Non è particolarmente bravo a dimostrarlo, ma avresti dovuto vedere con quanta insistenza ha chiesto di unirsi a te in matrimonio. Ma perché io? Perché sei quella che dovrà continuare il mio lavoro. È il tuo ruolo, cara. E se invece a me non piacesse? Ognuno ha il suo ruolo, Bala. Tu, i soldati, gli operai. Non è poi tanto male essere principessa, no? Preferiresti trasportare terra tutto il giorno? Oh, mamma, non essere così drammatica. Almeno loro qualche divertimento ce l'hanno ogni tanto. Due birre di Afide. Perché dovevo nascere operaio? Voi soldati avete tutti gli onori e in più girate il mondo. Conoscete insetti interessanti, li uccidete. Sì, ma poi potete passare le giornate con quelle bellissime operaie. Weaver, sono donne in carriera, sono ossessionate dallo scavare. Credo veramente che non troverò mai la ragazza giusta per me. Chi ha detto che ce n'era una per te? Io parlavo di una per me. Non vuoi la tua birra d'Afide? Chiamami pazzo, ma mi fa senso bere dal popò di un'altra creatura, è chiaro? Come preferisci. Io vado a briglia sciolta. Presto avremo un'ispezione reale. Un'ispezione? Vuoi dire che te ne stai impalato come un idiota mentre quattro sangue blu ti sorridono? Ah, non so come lo sopporti, Weaver. Zeta, ti conosco da tanto tempo, giusto? Non c'è dubbio. Sei nato due secondi dopo di me. Già, e da quando eravamo piccoli non faccio che sentire le tue lamentele. Ma di che cosa ti vai lagnando? Se non l'avessi notato, noi formiche guidiamo la giostra. Siamo i signori della terra. Ehi, non parlarmi di terra, chiaro? Ho passato tutto il giorno a trasportarla in giro. Ci deve essere pure un posto migliore. Sì, c'è. Mi ci sono trovato. Io? Scusa, parlavi con me? Esiste un posto migliore. Insettopia. Oh, davvero? Svitato a ore 3. Non puoi capire finché non ti ci trovi e non lo vedi da te stesso. Puoi essere una formica libera lì. Le strade sono pavimentate di cibo. Nessuno che ti dica cosa fare. Niente guerre. Niente colonia. Non sarei mai dovuto andare via. Sì, affascinante. Pattugliavamo a vasto raggio. Mi sono staccato dalla mia unità. Niente di meglio di un disturbo da stress post-traumatico per finire. E l'ho vista! Insettopia! Ti dirigi verso il monolito. 1000 centimetri oltre i canyon, verso la terra del rosso e bianco. Ehi, nonnetto, hai bevuto abbastanza. Vieni, prima di finire nei guai. Dirigetevi al monolito! Ascoltatemi! Al monolito! Ha una rotella fuori posto. Superato il lago. Insettopia. Sarebbe bello se fosse così semplice. Già, non smettere di sognare. Passato il lago! Cercate la terra del rosso e bianco! Che meraviglia! È tutto così rozzo. 10 minuti e ce ne andiamo, vero? Questo posto è vietatissimo. Date la colpa a me. Dite che è stata una mia idea. Ma è stata una tua idea. Inoltre, nessuno potrà riconoscerci. Coraggio, ragazze, cosa ne dite? Vediamo di darci alla pazza gioia. Oh, oh. Forza, ragazzi, 6:15, è ora di ballare. Facciamo 4 salti. Oh no, non fa niente. Io preferisco non saltare, Weaver. Fatevi indietro, signore. Voglio chiedere a uno di questi operai di ballare con me. Sono una massa di falliti. Microcefali zombie che si arrendono ad un sistema oppressivo. Ciao, vuoi ballare? Assolutamente. Seguimi. Come mai non ti ho mai vista da queste parti? Oh, io non esco molto. Io lavoro a palazzo. Oh, a palazzo, eh? Beh, scommetto che quei reali vivono alla grande. Certo, sono tutti un po', sai, per gli incroci. Cosa? Iaio. Ma che stai facendo? Beh, in effetti, a essere sincero, sto improvvisando. Davvero? Perché devono ballare tutti allo stesso modo? Insomma, è una noia mortale. Sai, è monotono. Non è divertente. guarda dove vai, operaio. Tu guarda dove vai, amico. Ti ritrovi nei guai. No, non fa niente. Per questa volta lascio stare. Io. Ma sei impazzita? Questo è saldo come un ciottolo. Ma non hai intenzione di difenderti. Ehi, amico, torna al tuo posto. Io? E se lui non volesse farlo? Già. E se il mio posto non mi piacesse? Di che sta parlando? Abbiamo un piantagrane qui. Buon viaggio, spaccone. Questo è diretto a tutti gli operai pigroni. Dovresti controllare la tua aggressività, amico. È solo un operaio. Devo andare. Quando posso rivederti? Vediamo. Mai. Addio. No, no, no, aspetta. Oh! Ho vissuto momenti pieni di sentimenti. Forse amore che provo, chissà. Sono qui che sorrido agli insetti che vedo. Forse amore che provo, chissà. Iaio. Mi hai detto proprio così, ti immagini? Ne vuoi un altro, amico? No, grazie. Ora me ne vado. Già, non ti biasimo. È sempre moscio qui la sera prima di una di quelle ispezioni reali. E forse i soldati devono farsi un bel sonno prima di vedere la regina. Non ti biasimo. Ci sono. Sai, una volta ero... Ciao. Psst, Weaver. Ho trovato Weaver. Che c'è? Ho avuto un'idea eccezionale. Devi scambiare posto con me. Fammi andare all'ispezione al tuo posto. Ma che ore sono? Weaver, tutta la famiglia reale interverrà. È il solo modo che ho per vederla. Vedere chi? La principessa Pala. Dai numeri. Vuoi che io scambi il posto con te? Sai in che pasticci puoi trovarti perfino per aver parlato di spacciarti per un soldato? Puoi trovarti nei guai solo per aver ascoltato qualcuno parlare di spacciarsi per un soldato. Devi aiutarmi. Se non posso rivederla, la mia vita non è degna di essere vissuta. Ti prego, Weaver, ti prego. Scambiamoci il lavoro, solo ecco, per un giorno. Pensa a tutte le cose che ho fatto per te. Non mi ricordo. Va bene, allora pensa a tutte le cose che farò per te. Conoscerei delle operaie. Vuoi scherzare? Danno sempre la caccia al nuovo arrivato. È come uno sport per quelle. E credimi, non ci penseranno due volte con un adorabile insettino come te. Weaver, io devo rivederla. Zeta, che razza di possibilità hai con una principessa? Voglio dire, probabilmente neanche si ricorda di te. Io lo so che sembra pazzesco, ma devo provarci. Oh, mamma. Principessa, è bizzarro trovarti qui. Io... Che ne dici di scaricare tutti? Oh, io sai, io ricopro diverse cariche. Dovresti chiamarmi una formica rinascimentale. Attenti a testa! Meravigliosa. Davvero meravigliosa. La precisione, l'ordine. Oh. Principessa Bala? Principessa Bala? Ehi, sono io! Ricordi Zeta, quello del locale? Principessa Bala? Principessa Bala? Bala, devi incoraggiare le truppe. Saluta. Ma mi vede? Scusatemi, ragazzi, mi dispiace, ma ho appena ricevuto un'offerta migliore. Volete Compagnia! Scusate, ragazzi, io... Principessa! Principessa Bala! Silenzio, rimettiti in riga. Sei nuovo, ragazzo? Oh, sì, sì, ma... Sai, me ne vado presto. Io sono in un periodo di prova. Periodo di prova? Questa è buona. Mi chiamo Barbatus. Zeta! Ancora! Sacrificio. Per alcuni è solo una parola. Per altri è un codice. Accidenti, sai, sono una frana nei giochi di parole. Un soldato sa che la vita di una singola formica non conta. Ciò che conta è la colonia. È disposto a vivere per la colonia, a combattere per la colonia, a morire per la colonia. Questo qui è svitato. Sono d'accordo. Alle ore 08 abbiamo saputo che il nemico Termite si è immobilitato. Non abbiamo altra scelta che sferrare un attacco preventivo. Voi siete i soldati migliori. So che voi tutti farete il vostro dovere. Sono orgoglioso di mandarvi in battaglia. Scusi, in battaglia? Procedete. Ecco, avanti, marcia! Oh, sai, credo che ci sia stato un terribile sbaglio. Io, ecco, la verità è che io sono venuto solo per il discorso. Tranquillo, ragazzo. Ti terrò d'occhio io. Conta! Uno! Due! Conta! Tre! Conta! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Undici! Dodici! Tredici! Quattordici! Quindici! Marciam formiche ad una, urrà! Urrà! Alle termiti portiam sfortuna, urrà! Urrà! Queste termiti non si batteranno accanitamente, vero? Insomma, stiamo parlando di schiappe, non è vero? Non direi, ragazzo. Sono cinque volte la nostra stazza e sparano acido dalla fronte. Muoviti, nenetto! Sampofiglia, due, due, urrà, urrà. Morte vieni, noi siamo due, urrà, urrà. Di un po', cosa esattamente, che cosa fa il nostro plotone? Insomma, ecco, dovremmo servire bevande o occuparci di scartocchi? Il nostro plotone ha il compito migliore di tutti, saremo in prima linea. Marciamo formiche a tre, urrà, urrà, urrà, urrà. Il fatto nostro viene da sé, urrà, urrà. Ehi, un momento, cerchiamo di non... Siamo troppo precipitosi, quelle lì hanno l'aria di forzuti, come pensate di sconfiggerle? Superandole di numero, ragazzo. Sgominiamo le loro difese e uccidiamo la loro regina. Dai, amici, questo secondo me siete un tantino drastici. Perché non tentiamo di influenzare il loro sistema politico con un contributo elettorale? Mi piaci, ragazzo. Hai il senso dell'umorismo. Carico! Forza! Mandiamogli in fiamme le chiappe! Sulla collina! Thank you. Mi hai salvato la vita. Ah, adesso non fare le smancerie. Ragazzi, attenti alle spalle! Ehi, qualcuno può darmi una mano? Sì. Dai, così bello. Ecco. Oh, sì, è arrivato il campione. Mi piace. Ehi, vacci piano, muscolone. Ci stai facendo fare una figuraccia. Chi ne è stato di Zeta? Ha chiesto di prendersi un giorno e lo rimpiazzo io. Diventa un po' più piazzato ed esploderai. Ehi, hai qualche problema? No, nessuno mi ha detto che scavare era divertente. Insomma, raccogli la terra, la sposti, la raccogli di nuovo, la sposti di nuovo. Allenamento, esercizi per le zampe e il torace. Sì, io vedo cosa intendi. Sì, davvero affascinante. Scusi, signore, facevo due chiacchiere con la mia amica, signore. Sai, io ho fatto due chiacchiere con il generale Mandibola. Chiunque non raggiungerà la sua quota verrà subito messo da parte. E dai, lascialo in pace. È nuovo. Ehi, che ne diresti se addolcissimo il tuo caratterino, per esempio, togliendoti la tua razione giornaliera? Grazie dell'attenzione. Non so cosa mi abbia preso. Rispondere in quel modo. Devo essere scema. Mi dispiace di averti messo nei guai, ma posso dividere la mia razione, se vuoi. Mi stai invitando a cena? Se non hai nessun altro impegno... Controllerò sulla mia agenda. Sai, sono contenta che Zeta si stia riposando. Ragazzo, sono qui. Barbatus. La verità, ragazzo. Sono messo male. No, niente affatto. Tu in effetti stai magnificamente. Hai, ecco, un bellissimo colorito sulle guance. No, lo vedo nei tuoi occhi. Me ne sto andando. Aiutami ad alzarmi, Zeta. Non mi sento più le zampe. Devi resistere, amico. Credimi, io so che ce la farai. Fai dei respiri profondi intanto. Io cercherò di trovare il tuo corpo. Sì, deve essere per forza da qualche parte. Ma, Barbatus, tieni duro. Barbatus? Non fare il mio sbaglio, ragazzo. Non eseguire ordini tutta la vita. Pensa con la tua testa. Barbatus. Siamo nei tempi. Il lavoro è stato completato nel settore A, signore. E ora stiamo aprendo un varco nel settore D. Dobbiamo darci dentro, Carter. Voglio doppi turni di 12 ore. Non battiamo la fiacca, è chiaro? Cristallino, signore. Bene. E il settore... Chiedo scusa, signore. Spero sia importante. È per la battaglia contro le termiti, signore. Il nemico è stato abbattuto. Ma temo che sia stato un disastro anche per le nostre truppe, signore. Ma è... terribile. Terribile. Però c'è una buona notizia, signore. Un soldato è riuscito a tornare. Ma va... Che cosa hai detto? Si è sparsa la voce nella colonia, signore. E la regina ha chiesto di incontrare l'eroe di guerra. Ma che... Bello. Ma che bello. Ci penso io. Congratulazioni, soldato. Beh, sei un po' bassino per un eroe di guerra, no? Eroe di guerra? Signore, io non credo affatto di essere un eroe. Bene. Non mi piacciono gli eroi. Ma signore, lei non capisce. Io... Io non ho fatto niente. Voglio dire che è stato orribile. È stato un vero massacro. Un massacro su un massacro. Molto bene, soldato. Ora saluta. Non è stata colpa tua, Weaver. Non era previsto che andassero in guerra. Sapessi quanto mi sento male. Povero Zeta. Non avrei mai dovuto lasciarlo andare. Aspetta un momento. Quello non è un soldato. Quello è Zeta! Zeta! Il piccoletto ce l'ha fatta! Sì! Andiamo, soldato. Come dicevo, figliolo, tu sei una formica con i miei stessi ideali. Una formica che guarda la morte in faccia e ride. Beh, in effetti, la verità è che io generalmente faccio dei commenti beffardi e ridacchio alle spalle della morte. Generale Mandibola. Tieniti per te i tuoi commenti. Lascia parlare me. Ti presento Sua Maestà la Regina. Incantato, incantato. E la principessa reale Bala. Bentornato a casa, soldato. Non so come esprimere la nostra gratitudine per i tuoi eroici sforzi. Il soldato mi ha chiesto di rendere il suo più umile apprezzamento per questa... Prego, prego. E non è stato niente. Solo il solito banalissimo valore e... straordinario coraggio, insomma. Nel fervore della battaglia c'è pochissimo tempo per pensare. Ecco, uno deve attaccare. Ma certo, come Sua Maestà può vedere, la battaglia è ancora vivida nella sua mente. Perciò, con il suo permesso, ritengo che questo sia il momento per mettere a nudo il soldato che è in lui. La prego, generale, non al nostro primo incontro. Non al nostro primo incontro. Non ti ho già visto da qualche parte? Forse sì, e ripensandoci forse no. E ripensandoci... Laio. Ma certo, tu sei quello del locale. No. Locale? Quale locale? Ho ballato con questo qui al locale l'altra sera. Era solo un operaio allora. Che cosa ci facevi al locale? È quello che voglio sapere. No, non parliamo di me. Voglio dire, guardate questo operaio. Guardate cosa ha fatto. Oh no, mi confondi con qualcun altro. Dopotutto sono un soldato. Esatto. Tu eri un operaio, ma ora sei un eroe di guerra. È un operaio? Un operaio ha ballato con la mia fidanzata? Fidanzata? Un momento, fermi tutti. Non è come sembra. Io posso spiegare questo pezzo. Ehi, è lei che ha fatto tutte le mosse. Arrestatelo. Ehi, un momento, stiamo calmi. Non possiamo discuterne. Che stai facendo? Oh, lascia stare mia figlia. La sto prendendo in ostaggio. No. Ma che? Voglio dire sì, è così. Un altro passo e per lei sarà la fine. Lasciami andare. Le faccio del male. Che cosa Cosa stai facendo, imbecille? Hai perso quel tuo minuscolo cervello. Eccoli, sono laggiù, andiamo! Scattare, scattare, scattare, scattare! Oh, bene. Stanno arrivando a salvare me e a uccidere te. Uccidere? Ehi, ragazzi! Smettila, smettila! Che cosa intendi fare? Levati, ehi, un momento, che cosa vuoi fare? Butti via quello che c'è tra noi? Che cosa state aspettando? Dico a voi, ragazzi! Che cos'è? È bellissimo! Soldato, levati da lì! Non preoccuparti, sto bene. Tu stai bene? Ehi, chi se ne frega di te? Io stavo quasi per calmarti, morire. Vuoi calmarti, per favore? Non lascerai che una esperienzuccia quasi mortale ti rovini l'umore? Senti, qui non si tratta di umore, d'accordo? Tu non mi stai ascoltando. Dove mi trovo? Dunque, come ti chiami? Devi salire su quell'albero e scoprire dove mi trovo. Il trucco è non farsi prendere dal panico. Chi è in preda al panico è perduto. Ma che sto dicendo? Siamo perduti. Mi ha rapita lo scemo del villaggio. Chi è più scemo? Lo scemo o la scema che si fa rapire dallo scemo? Che hai fatto? Hai steso le termiti con le chiacchiere? Non riesco a credere che tu abbia cercato di spacciarti per un soldato. Perché mi stai addosso? Non ti rendi conto che sono fuori dalla tua portata? Sei tu che sei venuta al locale degli operai in cerca di movimento e si dà il caso che tu l'abbia trovato. Il bruno, ruspante, sensuale operaio. Per favore, facevo un giro nei bassi fondi. Non capisci? Ho scelto te perché eri l'insettuculo più patetico in quella baracca. Sai, avevo l'intenzione di farti diventare parte delle mie più erotiche fantasie. Ma adesso te lo puoi scordare. Cancella tutto, intesi? Per te va bene quel vecchio rudere militare. La sua idea di una serata romantica è due posti a una esecuzione pubblica. Però hai scelto proprio il marito giusto. Per tua informazione, il generale e io siamo profondamente, profondamente impegnati. Torna immediatamente qua giù. Ora ci mettiamo in marcia dritti verso la colonia, così io potrò tornare a palazzo e tu potrai farti tagliare la testa. Monolito. Senz'altro, splendido. È un'offerta allettante. Considerate le alternative e torni tu, d'accordo? Perché io vado in Settopia. Oh, avanti, in Settopia. Sei più pazzo di quanto credessi. Ah, sì? Beh, io l'ho saputo da una attendibilissima fonte. O dovrei dire una ciucchissima fonte. Ma il punto è che sono convinto che il posto esiste sicuramente. Fermati! Ti ordino di fermarti, operaio! Ehi, io ho un nome, chiaro? È Zeta. E qui fuori non puoi darmi nessun ordine. D'accordo, benissimo, non c'è problema. Niente scuse, generale. Io rivoglio mia figlia. Francamente, comincio a dubitare delle tue capacità. Mi creda, maestà. Non risparmieremo nulla per riportarla. La principessa Bala è essenziale per i nostri piani per il futuro. Così fa fuori un centinaio di termiti. Arraffa delle medaglie e badabim badabam si becca la principessa. Lo guarda dritto negli occhi e dice: non rompere. Ha detto così al generale Mandibola. Amico. Ehi, ehi, amico. Hai sentito dell'eroe di guerra di nome Zeta? È scappato con la principessa, ci sei? Gli hanno sguinzagliato dietro le guardie. Lui le ha guardate e boom, sono andate in fiamme. Zeta? Stai parlando di Zeta? Ah, io lo conosco, è un amico mio. Secondo me le tue informazioni sono un pochino... Tu conosci Zeta? Sì, è un operaio, scavava da queste parti. Un operaio? È impossibile. Un operaio non può fare altro che lavorare. Sì, non è che abbiamo una scelta. Ce l'abbiamo una scelta. Guardate Zeta, ha deciso che voleva una cosa e ce l'ha messa tutta. Non è il solo. Io una volta ero soldato e ho scambiato posto con lui. Un istante, vuoi dirmi che non sono tenuta a stare qui? Possiamo scegliere. Le autorità non vogliono che lo sappiate, ma non siamo più tenuti a lavorare nel tunnel. Sono gli operai a controllare i mezzi di produzione. Ehi, se Zeta non scava, io non scavo. Ragazzi, che cos'è, una riunione terapeutica? Mettetevi al lavoro. Perché? Sentite, non dobbiamo più lavorare nel tunnel. Questo tizio Zeta sta capeggiando una rivoluzione. Io torno subito. Fantastico, avete visto come correvo? Vi dico che questo cambia tutto. D'ora in poi siamo noi a mandare avanti la giostra. Rifletti, Zeta. Due formiche. Chi ha mai sentito parlare di due formiche? 2 milioni di formiche, forse. Ma due. Senti, ho fame. Ho sete. E tutta questa cosa del deserto non è roba per me. Bla bla bla. Credo che bla, sia ora che tu mi riporti indietro. Riportati indietro da sola. Scusami, sei tu che hai rapito me, te lo ricordi? Questo significa che hai certe responsabilità. Non puoi abbandonarmi in questa landa desolata. Sì, beh, è meglio che stare laggiù alla colonia. Non direi sul serio, mi auguro. Forse tu facevi una gran vita, ma per me questo è meglio che scavare. Se tu avessi vissuto un giorno di travaglio, sapresti di cosa parlo. Travaglio? Che ne sai tu del travaglio? Come ti sentiresti se tutti si aspettassero che partorissi ogni 10 secondi per il resto della tua vita? Accidenti. Acqua! Pensi solamente a te stesso. Ah sì? Beh, nessun altro ha mai pensato a me. Perciò per quanto mi riguarda non ho bisogno di nessuno. Aiuto! Aiutami! Aiuto! Aspetta, ti tiro fuori io, aspetta! Grazie. Di niente. Bene, forse possiamo lasciarci alle spalle queste fantasie e tornarcene alla co... Oh, Zeta, che stai facendo? Dobbiamo attraversare il lago. Mi è sfuggito qualcosa qui. Non siamo appena usciti dall'acqua? Bala, senti, che cos'hai da perdere? Voglio dire, pensaci. Vuoi veramente diventare la signora pazzo scatenato? C'è un posto migliore. Zeta, ti prego. Avanti. Dammi solo un'occasione. Se non troviamo Insettopia presto, ti prometto che ti riporto alla colonia. Spero che tu sappia quello che fai. Sì, anch'io. Ragazzi, attenzione! Alcune formiche non raggiungeranno la loro quota. Smamma, pedina dell'oppressore! Vogliamo Zeta! Vogliamo Zeta! Vogliamo Zeta! Scusi, signore. Sono venuto non appena ho saputo. Stavo interrogando i cercatori. E qual è il rapporto? Beh, questo Zeta, signore, è un personaggio imprevedibile. Hanno perso le tracce di Bala sulle sponde del lago. Il lago? Chiediamo per Zeta. Cosa ci fa quel soldato lì? Pare che si stia tenendo per mano, signore, con un operaio. Non mi piace come vanno le cose, Cutter. Conto su di te per dei risultati. Posso contare su di te o no? Sì, signore. Bene, allora, sistemiamo la cosa. Ho sentito tanto parlare di questo Zeta. Ho avuto anche il piacere di incontrarlo una volta. Ma dov'è adesso? Qualcuno può indicarmelo? Insomma, se questo Zeta tiene talmente a noi, allora perché non è qui? Ve lo dico io il perché. Perché a Zeta di noi non importa un bel niente. Perciò ha rapito la nostra principessa. Perciò è scappato. Zeta non è un eroe. Siamo noi gli eroi. Siamo noi che assicuriamo un futuro alla nostra grande colonia. E quando avremo completato questa magnifica struttura, noi ne coglieremo i benefici. Più cibo e meno lavoro per tutti. E come ulteriore premio per i vostri eroici sforzi, oggi ognuno di voi avrà il giorno libero. Così potrete essere i veri ospiti d'onore alla cerimonia di inaugurazione del Megatunnel. Mandibola! Mandibola! Ora portami quei soldati. Vieni qui! È Insettopia! Mio Dio, avevi ragione. Esiste davvero. Va bene, va bene. Sei un genio. Mangiamo. Allora, qual è il problema? C'è una specie di campo di energia. Scusatemi, come si fa ad entrare? Temo che sia una cerimonia privata, questa. Chi sono i tuoi amici, caro? Insetti striscianti, pucci. Oh, poveri tesori. Buongiorno! Cara, dico io, saluti tutti gli insetti che emergono dall'erba. Scusate, forse non mi avete riconosciuta. Non ho fatto che viaggiare e sono tutta scompigliata. Sono la principessa Bala. Oh, è ancora peggio. È una spazzatura. Tesoro, sono poveri, sporchi, puzzolenti. Dobbiamo aiutarli. Se vorrete aspettarci qui, vi porteremo una cosettina. Oh, ti prego, Muffy, non un'altra crociata. Chippy, abbiamo degli obblighi sociali verso i meno fortunati. Oh. So che ridi dei miei hobby, ma questo è importante per me. Hai un cuore così grande. Per questo sei la mia cocchetta cocchettina. Oh, il mio grande, forte produttore di feromone. Ma tu, mia sensuale, oh, mamma, fascinosa. A un tratto mi è passato l'appetito. Sai, forse immaginavo Insettopia. Non lo so, un tantino diversa. Oh, Muffy, no! Oh, no! Oh, no! Attenta! Zeta, aiutami! Zeta! Non lasciarmi! Non lasciarmi andare, Zeta! Tirami fuori di qui! No, non va bene così. Quanto pare alla fine, proprio quando cominciavi a piacermi. Chi diavolo è quello? Basta così. Non le dirò niente. Soldato, la principessa è vitale per il futuro della colonia. Deve tornare per prendere il suo posto di regina. Abbiamo già una regina. Riguardo al tuo amico Zeta, perché dovrei toccarlo? Lui non è importante. Soldato, sappiamo tutti che una singola formica non conta. Né tu, né Cutter, nemmeno lei. Azteca! Non dire niente a quel bacchettone, Weaver! Dov'è Zeta? Non lo so dov'è! Che peccato. No! Fermi! Insettopia! So che sembra folle, ma è lì che andrebbe. Soldato, credi che questo sia un gioco? Insettopia non esiste. A dire la verità, esiste. Signore? Ti ragguaglierò sulle coordinate. Devi riportare la principessa. E riguardo a Zeta, uccidilo. Ma aveva detto che non contava. È per il bene della colonia. Hai preso la decisione giusta. Signori, ora potete vedere quanto possa essere pericoloso l'individualismo. Esso ci rende vulnerabili. Andiamo. Riportatelo al megatunnel. Mettetelo in prima fila. È tutto. Accidenti, ma a che pensavo? Per poco non ti facevo ammazzare. Zeta, sai, non dovresti essere così duro. Ora basta. Ti riporto dritta alla colonia. Oh, ai! Oh. Insettopia. Sai, dovevo essere pazzo. Zeta. Ma sai una cosa? Io so ammettere quando ho torto. E questa volta devo confessare che avevo assolutamente, al 100%, ragione. Hai mai visto niente di più bello nella tua vita? Insetto. Non portare Iella. Vieni. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. Permesso? It's gonna be a bright, sunshiny day. A bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Attenti tutti. Voglio le squadre al loro posto, in pieno assetto, pronte a sbarrare le porte. Qui e qui. Assicuratevi che la squadra addetta agli scavi sia in orario per sbucare in superficie a metà della cerimonia. Ora ci manca solo la principessa. Questa roba è una cacca. Davvero? Fammi assaggiare. Già, è proprio cacca. Niente male. Qualcuno deve alimentare quel fuoco. Bello, l'ultima volta ci ho pensato io. La legna non la prendo. Non è compito mio. Beh, potrebbe andarci quello nuovo. Non ha ancora contribuito. E ecco, mi è morto tra le zampe, così io... Sai, io non credo che in tutta la sua vita abbia mai fatto una scelta. Non sapevo queste cose. Voglio dire, da noi a palazzo, beh, lasciamo che sia il generale a prendere tutte le decisioni. Voglio farti una domanda. Cosa ti ha spinto a venire al locale quella sera? Forse cercavo qualcosa di proibito. Wow, proibito è il mio secondo nome. In verità il mio secondo nome è Casanova, ma non voglio che tu lo sparghi in giro. Sei piuttosto strano. Lo sai questo, vero? Beh, strano non è esattamente il termine che userei. A me piace. Non sei come tutti gli altri. In effetti, ora che me lo dici, c'è una certa stranezza in me. Insomma, ecco, una specie di bizarra qualità. Mi hanno detto, è strambo. Ma ecco, un complimento. Ehi, nuovo arrivato. Ci serve altra legna. Torno subito. Tu conserva questo pensiero, qualunque cosa stessi pensando. Ehi, vi siete mai chiesti perché vi chiamano pesti? E se, cioè, fossimo delle cosette minuscole, e se facessimo, cioè, parte di tutto quest'altro immenso universo che, cioè, è così grande che noi ne ignoriamo l'esistenza? Però, come sei profondo. Perfetto. Ci voleva un bel lavoro manuale, nella serata più romantica della mia vita. Salve. Mi trovavo nei dintorni. Ho pensato di fare un salto. Qui è molto bohemien. Allora, bello. Benvenuto ad Insetto. Doppia. Scusate se interrompo. Vedete, la nostra principessa è sparita e siamo distrutti per la cosa. È alta all'incirca così. Una vera gioia per gli occhi. Qualcuno l'ha vista? Eccola lì. Stai tranquilla, principessa. Tornerai a casa presto. Senti, Cutter, io non voglio tornare. La cosa è, principessa, che ho degli ordini. Ordini? Non riesci per una volta a pensare con la tua testa? Caspita, mi sono davvero impressionato. Dov'è Zeta? Zeta, lui è... morto. Zeta è morto. Non devi preoccuparti di lui. Zeta è morto? Beh, era una formica con delle idee. Peccato per lui. Principessa, la colonia ti invoca. Cutter, fermati immediatamente! Lasciami andare, brutto... Bala! Fermo, tu... Oh no, accidenti, ora che cosa faccio? Va bene, senti, cerchiamo di essere razionali. Insomma, Bala e io, insomma, noi. Lei è una principessa e io sono un ingegnere del dislocamento terriero. Perciò cosa? Ecco, d'altro canto, devo tornare a prenderla. Ti darò un passaggio. Lo sento come un dovere. E poi è quello che la mia cara cocchina vorrebbe. Senti, che ne diresti di un caffè prima? Bene, vecchio mio. Mi pare di aver visto una pozzanghera. Su, in sella. Attento! Aspettate il mio segnale. Principessa, appena in tempo. Levami le zampe di dosso. Generale, esattamente cosa sta accadendo qui? Esigo una spiegazione. Spiegherò ogni cosa a tempo debito. L'ingresso sud-est è chiuso? Sì, signore. Non a tempo debito. Adesso. Non mi piace il tuo modo di pensare. Non mi piace il modo in cui dirigi questa colonia. E non mi piaci tu. Il matrimonio è annullato. Le cose cambieranno da queste parti. Hai ragione, principessa. Le cose cambieranno. Facciamola mettere comoda. Visto che sarei qui per un po'. Che cosa credi di fare? Mia madre avrà certo la tua testa. Ne dubito. Hai uno spirito battagliero, Bala. Ed è questo che occorre per dare inizio alla nuova colonia. Sciacqueremo via la lordura dalle nostre fogne. Un nuovo inizio. Con te al mio fianco come regina. Tu sei pazzo. La storia vedrà le cose diversamente. Bene, signori, è ora di prendere i vostri posti. Un giorno mi ringrazierai. Assestati! Eccola là! Oh, bene. Vai a prendere la donna che ami, Zeta. Addio, Chip. E grazie. Ehi, tu! Dove credi di andare? Io? Io stavo solo... ecco. Non dovresti essere qui fuori. Tutti gli operai devono assistere alla cerimonia per l'apertura del tunnel. Oh. Sì, certo, la cerimonia per l'apertura del tunnel. Io, meglio che mi avvii. Allora io, ecco la... Ehi! Sto andando al tunnel per la cerimonia. Sbrigati. È meglio che vada. Vado alla cerimonia per l'apertura del tunnel. Permesso, prego. Cerimonia per l'apertura del tunnel. Ehi, operaio! Aprono il tunnel. Mi aspettano, sono l'uomo chiave. Dove credi di andare? Cerimonia per l'apertura del tunnel. accidente. La giornata va sempre meglio. Sono la principessa! Maledizione! Caspita, i tuoi modi non sono migliorati Zeta. Molto. Oh, oh, oh, oh. Sei tu. Sei tornato per me. Beh, sì, sono tornato per te, sai. Io ho un forte sentimento per te. Diciamolo, sei bellissima e tantino combattiva a volte, ma è una cosa che si risolve. Tu parli troppo. Accidenti, sto quasi per diventare un tipo forte e senza parole. Coraggio, la città è deserta. Meglio tagliare la corda. Zeta, non possiamo. Mandibola è fuori di senno. Lui non fa che parlare di sciacquare via la lordura e di cambiare la storia. E credo che tenterà di uccidere mia madre. Non solo tua madre, ma tutti. Che cosa accade? Guarda, noi siamo qui al sicuro in città, ma loro intrappoleranno tutti nel megatunnel e qui c'è il lago. Hai ragione. Non possiamo andarcene. Forza, dobbiamo andare laggiù. Oggi è la realizzazione di un sogno. Il sogno di una colonia orgogliosa, pura e unita. Una colonia rinata. Tra un momento, questo tunnel verrà aperto. Il passato verrà spazzato via. E sorgerà un nuovo giorno. Un discorso emozionante, generale. Vorrei solo che mia figlia fosse qui per apprezzarlo. Maestà, so quanto sia in ansia riguardo a Bala, ma i miei uomini sono sulle sue tracce ed è solo questione di tempo prima che arrivi. Generale, non voglio discuterne. Ritrovala. Lo farò, maestà. Addio. Hai sentito? La cerimonia di inaugurazione del tunnel sarà una cosa grandiosa per tutta la colonia. Sbarrate le porte. Gunther, mi hai sentito? Signore, stavo pensando. Dobbiamo andare fino in fondo. Guardi cosa hanno realizzato questi operai. Hanno la stoffa giusta. Non esiste un altro modo. Gunther, sei un ottimo ufficiale. Dotato di disciplina, coraggio, abilità. Ma pare che tu abbia una certa debolezza per i ceti inferiori e ciò mi disturba. Allora, sei con me? Signore, domando scusa. Benissimo. Sbarra le porte. Sì, signore. Quando mi affaccio su questo magnifico tunnel, mi riempio di orgoglio. Salta! Questi momenti difficili è di grande sollievo sapere che voi, i nostri operai... Mamma! Aspetta! Ci sono tutti gli operai della colonia. Ehi, un momento, quello mi deve dei soldi. Questa straordinaria impresa è la testimonianza della forza dei nostri instancabili. Avverti tua madre. Io devo andare dagli scavatori prima che finiscano. Non c'è abbastanza tempo. Ehi, il pessimismo lascialo a me, intesi? E ora ci avete donato questa opera maestosa. Permesso, scusate. Istante, quando i nostri scavatori bucheranno la superficie, mamma! Il sole inonderà. Mamma, fermati! Questa... Bala, dove eri finita? Stai bene, cara? Benissimo. Oh, cos'è accaduto? Mamma, siamo in un terribile pericolo. Ragazzi, non vi rammollite! Fermi! Aspetta! Ehi! Smettete di scavare! Zeta, sei tu! Weaver, fermati! Zeta, sei tornato! Oh, Zeta! Weaver! Zeta! Che cosa succede? Fermi tutti, ragazzi! Fermatevi! Smettete di scavare! Chi l'ha deciso? Lo decidi da solo! Se bucate quel muro, finiremo... affogati! L'acqua arriverà a fiotti! Allora dobbiamo far uscire tutti da qui. Ascolta, io ho degli ordini. E gli ordini sono scavate. E se qualcuno ti ordinasse di buttarti a fiume, tu... Oh, mamma, lo sto chiedendo alla persona sbagliata. Sentite, pensate con la vostra testa. Dai qua, ne ho abbastanza di te. Tornate al lavoro. Cos'è questo rumore? Oh, oh. Andiamocene via! Scappate! Guardate, correte! Non vi fermate! Attenzione, ascoltatemi. Siamo stati tutti ingannati. Dobbiamo dirigerci con calma verso le uscite. Mettetevi in salvo! L'inondazione! No, niente panico! Niente panico! Ogni formica per sé! Sono bloccate! Siamo in trappola! Che cosa facciamo? Non possiamo fare nulla! Sì, invece! Weaver, prendimi sulle spalle! Attenzione! Ascoltate! E tu chi diavolo sei? Lui è Zeta! Sentite, aiutiamoci a vicenda a uscire di qui, prima di affogare tutti! E come? Formando una scala! Una scala? Ehi, se abbiamo costruito questo, possiamo fare qualsiasi cosa! Coraggio, muoviamoci! Subito! Avanti, radunatevi! Tu, comincia a salire! Afferrati a me! Fatto! Mi scusi, maestà. Zeta, devo aiutare mia madre. Non preoccuparti, so quasi esattamente quello che faccio. Ci vediamo di sopra. Signori, arriva un momento nell'evoluzione di una colonia perfetta in cui i forti devono elevarsi sui deboli. Questo momento è giunto. In questo istante, sotto di noi, gli elementi deboli della colonia vengono spazzati via. Oh mio Dio, no, non ce la faremo. Ce ne vogliono altri. È meglio che voi due andiate lassù. Weaver, non puoi reggere da solo. Andate! Tieni duro, amico. Ecco! Presto, scava, scava, scava! La nostra principessa è al sicuro e il nostro glorioso futuro è imminente. Possiamo andarne tutti fieri. È il momento di un nuovo inizio. Che diavolo è? Credo sia l'elemento debole, signore. Datemi una mano. Zeta, tu? Torna giù. Non capisci? È per il bene della colonia. Che stai dicendo? Siamo noi la colonia. Cutter, che cosa fai? Quello che avrei dovuto fare molto tempo fa. Questo è per il bene della colonia, signore. Sei una larva incapace e ingrata. Io sono la colonia. No, attenta. Soldati, muovetevi! Tirate su queste formiche! Coraggio! Forza, avanti, scorrere! Grazie al cielo, ce l'abbiamo fatta! Aspetta qui! Zeta! Oh, no. Tutti indietro! Indietro! Fatelo respirare! Indietro! Zeta! Oh, Zeta! Ti prego, svegliati. No! Mi devi ancora quella cena. Bambolona. Ce l'abbiamo fatta, Zeta! Sei formicabile. Ce l'hai fatta. Ce l'abbiamo fatta. Oh! Amici, vi prego, è davvero imbarazzante per me. D'altro canto, io magari potrei abituarmici. Ecco qui, la tipica storia, lui incontra lei, lui ama lei, lui cambia ordine sociale di base. Per ciò che altro posso dirvi? Abbiamo ricostruito la colonia, è ancora più bella di prima, sapete, perché ora c'è una grandissima piscina al coperto. Bala e io incidentalmente stiamo pensando di mettere su famiglia, insomma solo qualche figlio, forse 1 milione o 2 tanto per cominciare. E io sono in cura da un nuovo analista, favoloso, assolutamente favoloso. Mi sta mettendo in contatto con la mia larva interiore, il che mi aiuta moltissimo. E, insomma, finalmente sento di aver trovato il mio posto. E sapete una cosa? È proprio dove ho cominciato. Ma la differenza è che questa volta l'ho scelto io. Guess what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant. Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant. But he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had high hopes. He had remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky. Hopes of problems just a toy balloon. Soon they're just about to go pop. Oops, there goes another problem kerplop. Oops, there goes another problem. Oops, there goes another.